l'inferno. Io penso che quella persona lì che l'ha portata via la conosceva. La ragazzina si è fidata del mostro. Per 3 mesi Giovanni Valsecchi e i suoi volontari hanno cercato Yara viva. Ora che il suo corpo è stato trovato senza vita, tutti sospettano di tutti. Storiacce entra in questo girone delle ombre. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto sabato alle 13:15 su Radio 24.